Capitolo 5. La storia di Anna. Sa, disse Anna in tono confidenziale, ho deciso di godermi questa passeggiata. L'esperienza mi ha insegnato che riesci quasi sempre a goderti le cose se sei decisa a farlo. Certo, bisogna crederci fino in fondo. Io non penserò che sto per tornare all'orfanotrofio finché siamo in viaggio. Penserò soltanto al paesaggio. Oh, guardi, guardi, è già sbocciata una rosellina in quel cespuglio. Non è graziosa? Sarà contenta di essere una rosa canina, non crede? Non sarebbe bello se potessero parlare? Di sicuro ci direbbero cose deliziose. E il rosa non è il colore più incantevole del mondo. A me piace moltissimo, ma non posso mai indossare niente di rosa. Se hai i capelli rossi non puoi metterti in rosa, nemmeno con la fantasia. Per caso lei ha mai visto qualcuno che da piccolo aveva i capelli rossi e che crescendo sono diventati di un altro colore? No, mai nessuno, rispose impietosita Marilla, e mi sembra improbabile che possa accadere ai tuoi. Anna sospirò. Ecco, l'ennesima speranza si è volatilizzata. La mia vita è un perfetto cimitero di speranze morte e sepolte. L'ho letto una volta in un libro questa frase e la ripeto per consolarmi ogni volta che patisco una delusione. Non capisco dove stia la consolazione, osservò Marilla. Beh, nel suono, elegante e romantico delle parole. È come se io fossi l'eroina di un libro, capisce? Ho una vera passione per tutto ciò che è romantico e un cimitero pieno di speranze sepolte. E quanto di più romantico si possa immaginare? No, sono piuttosto felice di averne uno tutto mio. Attraversiamo anche oggi il lago delle acque scintillanti? Non passiamo dallo stagno di Berry, se è quello che intendi. Prendiamo la litoranea. Una strada costiera? Sembra interessante, commentò Anna con aria sognante. È bella come sembra dal nome? È bastato che lei dicesse litoranea perché io la vedessi con la fantasia, così, al volo. Anche White Sands, sabbie bianche, è un bel nome, sebbene non tanto quanto Avon Lee, che è il mio preferito. È una delizia, così musicale. Quanto manca White Sands? 5 miglia. E visto che a quanto pare ha una gran voglia di parlare, potresti farlo per un motivo e raccontarmi ciò che sai di te stessa. Oh, ciò che so di me stessa non è un granché. Quasi non vale la pena di raccontarlo, rispose subito Anna. Se solo mi lasciasse raccontare ciò che immagino di me stessa, lo troverebbe di sicuro più interessante. No, non voglio sentire altre fantasie. Tieniti ai fatti. Comincia dall'inizio. Dove sei nata e quanti anni hai? Ho compiuto 11 anni a marzo, rispose la bambina, dando l'addio alle sue fantasie con un sospiro rassegnato. Sono nata a Bolingbroke, in Nova Scozia. Mio padre si chiamava Walter Shirley e insegnava alla scuola superiore di Bolingbroke. Mia madre si chiamava Bertha Shirley. Non sono nomi carini, Walter Bertha. Sono così contenta che i miei genitori avessero nomi così belli. Sarebbe una vera disgrazia avere un padre che si chiama, che ne so, Jedediah, no? Io penso che il nome non abbia importanza, purché uno si comporti come si deve. Osservò Marilla, sentendosi chiamata a inculcare alla bambina un insegnamento buono e utile. Boh, non saprei. Anna sembrava pensierosa. Una volta ho letto in un libro che una rosa avrebbe lo stesso delizioso profumo, anche se si chiamasse con un qualsiasi altro nome, però non sono per niente convinta. Non credo proprio che una rosa sarebbe altrettanto meravigliosa se si chiamasse Cardo o Cavolo Puzzoso. Penso che mio padre sarebbe potuto essere un bravo uomo anche se si fosse chiamato Jedediah, ma sono sicura che sarebbe stato il suo cruccio. Comunque anche mia madre insegnava alla scuola superiore, ma quando ha sposato papà ha smesso. Un marito era già una responsabilità notevole. La signora Thomas mi ha raccontato che erano 2 ragazzini poveri in canna. Andarono ad abitare in una minuscola casa gialla a Bolingbroke. Non l'ho mai vista, ma me la sono immaginata migliaia di volte. Scommetto che c'era un caprifoglio rampicante davanti alla finestra del soggiorno e cespugli di lillà nel giardino davanti casa, con tanti ciuffi di mughetti subito oltre il cancello. E sì, e tendine di mussola alle finestre. Sono tende che danno a una casa quella certa aria. Io sono nata in quella casa. La signora Thomas mi ha detto che ero la bambina più brutta e sgraziata che avesse mai visto, perché ero magrissima, pelle e ossa e tutta occhi. ma che secondo mia madre ero perfetta e bellissima. Direi che una madre dovrebbe saper giudicare meglio di una qualsiasi donna delle pulizie, no? Comunque, sono felice che la mia mamma fosse soddisfatta di me. Sarei talmente triste se sapessi di essere stata una delusione per lei, perché non è vissuta per tanto, sa? È morta di febbre quando avevo solo 3 mesi. Mi piacerebbe che fosse vissuta abbastanza da potermi ricordare di averla chiamata mamma. Sarebbe così tenero poter chiamare mamma, non crede? E mio padre è morto 4 giorni dopo per la stessa febbre. Così io sono rimasta orfana e tutti erano fuori di sé perché non si sapeva cosa fare di me. Me l'ha raccontato la signora Thomas. Vede, già allora non mi voleva nessuno. Sembra il mio destino. Entrambi i miei genitori venivano da molto lontano ed era risaputo che non avevano parenti in vita. Alla fine mi ha presa la signora Thomas, anche se era povera e aveva un marito sempre ubriaco. Mi ha cresciuta lei ed era una che muoveva spesso le mani. Lei sa per caso se c'è qualcosa nel fatto di essere allevati così che dovrebbe rendere migliori degli altri? Perché ogni volta che le disubbidivo, la signora Thomas mi rimproverava e mi chiedeva come facevo a essere una bambina così cattiva quando lei mi aveva tirata su a suon di sberle. I Thomas si sono trasferiti da Bolingbrook a Marysville e io sono rimasta con loro fino all'età di 8 anni. Aiutavo la signora a badare i bambini. Ne aveva 4 più piccoli di me e le assicuro che davano molto da fare. Poi è successo che il signor Thomas è stato travolto da un treno ed è morto, e sua madre si è offerta di prendere con sé la signora Thomas e i bambini, ma non voleva me. La signora Thomas era fuori di sé, me l'ha detto lei, perché non sapeva cosa fare di me. Ma poi la signora Hammond, che abitava più su lungo il fiume, è scesa fino da noi e ha detto che mi avrebbe presa lei perché aveva visto che ero brava con i bambini. E quindi abbiamo risalito la riva del fiume e sono andata a vivere con lei in una piccola radura circondata da ceppi di alberi abbattuti. Era un posto isolato, molto solitario. Sono certa che non sarei mai riuscita a sopravvivere se non avessi avuto una fervida immaginazione. Il signor Hammond aveva una piccola segheria e la signora aveva 8 figli. Aveva avuto 3 coppie di gemelli, una dopo l'altra. A me i bambini piacciono a piccole dosi, ma 3 coppie di gemelli in fila è davvero troppo. L'ho anche detto alla signora, quando sono arrivati gli ultimi due, era una fatica immane occuparsi di tutti. Sono vissuta con gli Hammond al fiume per più di 2 anni. Poi il marito è morto e lei ha deciso di lasciare quella casa. Ha diviso i figli tra i vari parenti e si è trasferita negli Stati Uniti e io sono finita all'orfanotrofio di Hopetown perché nessuno voleva prendermi con sé. Pensi che non mi volevano nemmeno all'orfanotrofio perché dicevano che era già troppo pieno. Ma sono stati costretti a tenermi e io ci sono rimasta per 4 mesi finché la signora Spencer non è venuta a prendermi. Anna concluse il racconto con un altro sospiro di sollievo stavolta. Evidentemente non le piaceva parlare delle proprie esperienze in un mondo che non l'aveva mai voluta. Sei mai andata a scuola? Le domandò Marilla facendo svoltare la cavalla verso la litoranea. Non tanto. Ci sono andata per un po' l'ultimo anno che ho vissuto con la signora Thomas. Quando mi sono trasferita su al fiume eravamo così lontani dalla scuola che d'inverno non potevo raggiungerla a piedi ed estate c'era vacanza, quindi potevo frequentare soltanto in primavera e autunno. Però andavo a scuola quando stavo all'orfanotrofio, so leggere abbastanza bene e so un sacco di poesie a memoria, tipo la battaglia di Hohenlinden, Edimburgo dopo l'alluvione e Bingen sul Reno, parecchie tratte dalla raccolta intitolata La signora del lago e la maggior parte delle stagioni di James Thompson. A lei piace la poesia che fa correre i brividi su e giù per la schiena? C'è un brano nel libro di lettura di Quinta. Si intitola La caduta della Polonia, che è pieno d'azione e colpi di scena. Certo, io non avevo il libro di lettura di Quinta, ma le ragazzine più grandi di solito mi prestavano i loro da leggere. Quelle donne, la signora Thomas e la signora Hammond, erano buone con te? Chiese Marilla guardando la bambina con la coda dell'occhio. Oh, balbettò Anna. Il faccino espressivo si fece di colpo scarlatto, con la fronte aggrottata per l'imbarazzo. Beh, ecco, io credo volevano esserlo di sicuro. Intendevano essere più buone e gentili possibile, e quando una persona cerca di essere buona con te, non fai tanto caso al fatto che non lo sia. Non sempre. Avevano tante preoccupazioni, sa, perché è davvero difficile e faticoso avere un marito sempre ubriaco, e deve essere faticosissimo avere 3 coppie di gemelli di fila, non crede? Comunque sono sicura che in fondo volevano essere buone con me. Marilla non le fece altre domande. Anna si abbandonò alla silenziosa contemplazione della strada costiera e la donna continuò a condurre distrattamente la cavalla, immersa nei propri pensieri. Di colpo aveva il cuore pieno di compassione per quella bambina. Che vita misera e senza affetto aveva vissuto fino a quel momento. Una vita fatta solo di tanto lavoro per cui nessuno l'aveva mai ringraziata, fatta di povertà estrema in cui ogni sua necessità era stata ignorata, perché Marilla era abbastanza acuta da saper leggere fra le righe del racconto di Anna, indovinando la verità. Non c'era da stupirsi che la bambina fosse stata tanto felice all'idea di avere finalmente una vera casa. Era un vero peccato doverla rimandare da dove era venuta. E se lei, Marilla, avesse assecondato l'assurdo capriccio di Matthew e le avesse permesso di restare? Lui sembrava davvero determinato e quella bambina in fondo era carina, simpatica e sveglia. Certo, parla un po' troppo, pensò la donna, ma si può insegnarle a trattenersi un po'. Comunque non è mai volgare o maleducata quando dice qualcosa, si comporta istintivamente come una signorina. È probabile che i suoi genitori fossero brave persone. La litoranea era boscosa e selvaggia e solitaria. Sulla destra crescevano fitti gli abeti, spiriti indomiti, temprati dai lunghi anni di lotta contro i venti del golfo. A sinistra c'erano invece le scogliere di arenaria rossa, a picco sul mare, e la strada correva talmente vicino all'orlo che una cavalla meno esperta e decisa della saura di Matthew e Marilla avrebbe potuto mettere a dura prova i nervi dei viaggiatori che trasportava. Ai piedi delle falesie, cumuli di rocce erose dalla risacca si alternavano a piccole baie sabbiose, punteggiate di minuscoli ciottoli, simili a pietre preziose dell'oceano. E poi c'era il mare, di un blu immobile e cangiante, sulla cui superficie si libravano i gabbiani con le punte delle ali che lampeggiavano argentee nel sole. Non è meraviglioso il mare? Commentò Anna uscendo da un lunghissimo silenzio a occhi sgranati. Una volta, quando abitavo a Marysville, il signor Thomas ha noleggiato un carro e ha portato tutta la famiglia a fare una gita al mare, a 10 miglia da casa. Mi sono goduta ogni attimo di quella giornata in spiaggia, anche se ho dovuto occuparmi dei bambini per tutto il tempo, e ho continuato a sognarla per anni. Ma questa costa è più bella di quella di Marysville. Quei gabbiani, oh, non sono splendidi. A lei piacerebbe essere un gabbiano? A me sì, credo. Cioè, se non potessi essere una ragazza. Non pensa che sarebbe bello svegliarsi all'alba e scendere in picchiata sull'acqua e poi risalire nel blu del cielo e del mare per tutto il giorno? E poi la sera tornare in volo al nido? Oh, riesco perfino a immaginarmi come sarebbe. Oh, che cosa bella quella casa laggiù. Quello è l'hotel di White Sands. Lo gestisce il signor Kirk, ma la stagione non è ancora cominciata. D'estate si riempie di comitive di turisti americani. A quanto pare apprezzano la bellezza di questa costa. Oh, ho avuto paura che fosse la casa della signora Spencer, mormorò Anna rannuvolandosi. Non voglio arrivarci perché a quel punto sarà tutto finito. Capitolo 6. Marilla cambia idea. Ma a tempo debito ci arrivarono. La signora Spencer viveva in una grande casa gialla a White Sands Cove e quando aprì la porta, sul suo viso benevolo, lo stupore e il piacere di vedere le due nuove arrivate si mescolarono. Certo, care, esclamò, siete le ultime persone che mi sarei aspettata di vedere oggi, ma sono davvero felice. Marilla vuole portare dentro il cavallo? E come stai, Anna? Sto bene. Per quanto lo consente la situazione, grazie, rispose la bambina senza sorridere. Era come un fiore improvvisamente appassito. Dovremmo fermarci un po' per far riposare la cavalla, disse Marilla, ma ho promesso a Matthew che sarei tornata presto. Il fatto è, signora Spencer, che ci deve essere stato un malinteso e sono venuta per cercare di chiarire la questione. Io e Matthew le avevamo mandato a dire di portarci un ragazzo dall'orfanotrofio. Avevamo detto a suo fratello Robert di riferirle che volevamo un maschio sui 10-11 anni. Oh, Marilla Cuthbert, ma cosa mi sta dicendo? Esclamò la signora Spencer già in ansia. Robert ci ha riferito il messaggio tramite sua figlia, Nancy, e lei ha detto che volevate una femmina, vero, Flora Jane? Chiamò in aiuto anche la figlia, che l'aveva appena raggiunta sulla soglia. Sì, certo, signorina Cuthbert, confermò convinta Flora Jane. Oh, sono terribilmente dispiaciuta, disse la padrona di casa. È un brutto pasticcio, ma le assicuro che non è stata colpa mia, signorina Cuthbert. Ho fatto del mio meglio, convinta di seguire le sue istruzioni. Nancy è una testolina vuota e spesso sono stata costretta a sgridarla per quanto è sventata. Ma no, è stata colpa nostra, ribatté Marilla rassegnata. Saremmo dovuti venire di persona invece di affidarci al passaparola. Comunque ormai l'errore c'è stato e l'unica cosa da fare è cercare di metterci una pezza. Possiamo rimandare la bambina all'orfanotrofio? Immagino che possano riprenderla indietro, no? Credo di sì, rispose pensierosa la signora Spencer, anche se non penso che sarà necessario rimandarla indietro. Proprio ieri è passata da me la moglie di Peter Blewitt e mi diceva che avrebbe un gran bisogno di una ragazzina che l'aiutasse in casa. La signora Blewitt ha una famiglia numerosa e fatica a trovare un aiuto valido. Anna sarebbe adatta. È proprio vero che a volte la provvidenza. Marilla non aveva l'aria di pensare che la provvidenza c'entrasse molto con quella faccenda. Ecco che si ritrovava per le mani una soluzione inattesa per togliersi di torno l'orfanella sgradita e non era affatto contenta. Conosceva la moglie di Peter Blewitt soltanto di vista. Era una donnetta dall'aria bisbetica, senza un'oncia di grasso superfluo, e comunque ne aveva sentito parlare. Di lei si diceva che era una pessima padrona di casa e una scansafatiche. Le ragazze che erano state a servizio da lei ed erano state licenziate raccontavano storie spaventose sui suoi tremendi accessi di rabbia, sulla sua avarizia e sui bambini impertinenti attaccabrighe della famiglia. Marilla si sentiva rimordere la coscienza all'idea di lasciare Anna alle tenere cure di quella donna. Beh, passerò da lei per parlarne, disse. Oh, ma tu guarda che coincidenza. Non è proprio la signora Blewitt che sta arrivando sul viale? Esclamò la signora Spencer, spingendo frettolosamente le ospiti attraverso l'ingresso e verso il salotto, dove furono colpite da un gelo mortale, come se l'aria fosse stata trattenuta tra i pesanti tendaggi verde scuro per talmente tanto tempo da avere perso ogni particella di calore. È davvero una bella fortuna. Così possiamo risolvere subito la questione. Si accomodi in poltrona, signorina Cuthbert. Anna, siediti sull'ottomana e cerca di stare ferma. Datemi pure i cappelli. Flora Jane, vai a mettere sul bollitore. Buon pomeriggio, signora Blewitt. Stavamo giusto dicendo che caso fortunato il fatto che lei sia passata proprio adesso. Permettete che vi presenti, signora Blewitt, la signorina Cuthbert. E vi prego di scusarmi un attimo. Ho dimenticato di dire a Flora Jane di sfornare i panini dolci. La signora Spencer scappò fuori dalla stanza dopo aver aperto le tende. Seduta, muta, sull'ottomana, con le mani strette in grembo, Anna fissava quasi ipnotizzata la signora Blewitt. Sarebbe stata affidata alle cure di quella donna dalla faccia spigolosa e dagli occhi penetranti. La bambina sentiva già un groppo che si formava in gola e gli occhi che bruciavano. Stava già cominciando a temere di non riuscire a trattenere le lacrime. Quando la signora Spencer tornò, trafelata e sorridente, con l'aria di una che ha ben chiaro in mente come si affronta qualunque difficoltà, che sia fisica, mentale o spirituale, e soprattutto come la si risolve. Sa, signora Blewitt, a quanto pare c'è stato un errore con questa bambina, annunciò. Ero convinta che il signore e la signora Cuthbert volessero una bambina in adozione. Questo è ciò che mi era stato detto, poco ma sicuro. Ma sembra che in realtà desiderassero prendere un maschio. Dunque, se ancora dell'idea di ieri, mi pare proprio che questa sia l'occasione buona per lei. Gli occhi della signora Blewitt sfrecciarono fulminei su Anna, esaminandola da capo a piedi. «Quanti anni hai? Come ti chiami?» si informò. «Anna Shirley», mormorò riluttante la bambina senza azzardarsi a fare nessuna richiesta sulla pronuncia del suo nome. «E ho 11 anni. Bah, non sei un granché. Però sembri forte, non so come mai, ma i magri sono sempre migliori. Beh, guarda che se ti prendo dovrei fare la brava, sai? Dovrai essere sempre buona, obbediente e rispettosa. Mi aspetto che ti guadagni vita e alloggio, sia chiaro. Comunque, sì, direi che posso levargliela di torno io, signorina Cuthbert. Il mio piccolino è nervosissimo, io sono esausta a furia di stargli dietro. Se a lei va bene, posso portarmela a casa anche subito.» Marilla guardò Anna e si intenerì alla vista del faccino smorto della bambina con quel suo sguardo di muta tristezza, quella di una creaturina che inerme per l'ennesima volta si ritrova presa nella trappola da cui era appena riuscita a fuggire. Marilla aveva la sgradevole sensazione che se avesse ignorato la supplica di quello sguardo, il rimorso l'avrebbe tormentata fino al giorno della sua morte. Tra l'altro, la signora Blewitt non le era mai piaciuta. Lasciare una bambina così sensibile nelle mani di una donna del genere, no, non poteva prendersi la responsabilità di una scelta del genere. «Beh, non lo so», intervenne lentamente Marilla. «Non ho detto che Matthew e io avevamo deciso definitivamente di non tenerla. Anzi, mio fratello avrebbe tutte le intenzioni di tenerla. Ero venuta soltanto per capire come mai ci fosse stato questo errore. Mi conviene riportarla a casa e parlarne bene con mio fratello. Non posso prendere nessuna decisione senza averlo consultato. Se alla fine saremo persuasi di non tenerla, gliela porterò o gliela manderò qui domani sera. Ma se non la vede arrivare, sarà perché la bambina starà con noi. A lei può andare bene, signora Blewitt?» «Beh, immagino di non avere altra scelta», replicò la donna sgarbata. Mentre Marilla parlava, era apparso un sorriso luminoso sul volto di Anna, come un sole all'alba che sorge. Prima era scomparso lo sguardo disperato, poi era arrivata una vaga sfumatura di speranza. Gli occhi si erano fatti sempre più profondi e splendenti come le stelle del mattino. La bambina era quasi trasfigurata. E quando, qualche istante dopo, la signora Spencer e la Blewitt uscirono dal soggiorno per andare in cerca di una ricetta che quest'ultima era passata a chiedere in prestito, Anna saltò dall'ottomana come una molla e corse da Marilla. «Oh, signorina Cuthbert, ha detto davvero che forse mi lascerà restare a Green Gables?» le chiese in un sussurro, come se dicendolo a voce alta ci fosse il rischio di mandare in frantumi quella magnifica possibilità. «L'ha detto sul serio? O me lo sono solo immaginata?» «Direi che ti conviene imparare a tenere a freno la tua fantasia, Anna, se non riesci a distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è», la riprese severamente Marilla. «Comunque sì, mi hai appena sentita dire ciò che ho detto e niente di più. Non è ancora deciso nulla e può darsi che alla fine ti lasciamo alla signora Blewitt. Di sicuro ha più bisogno di te di quanto ne abbia io. Piuttosto che andare a vivere con lei, preferisco tornare all'orfanotrofio», ribatté Anna impetuosa. «Quella è il ritratto sputato di un avvoltoio, ecco.» Marilla trattenne un sorriso, convinta che Anna dovesse essere rimproverata per quella dichiarazione. «Vergognati, una bambina come te, parlare così di una signora che per giunta non conosce», la riprese severa. «Torna subito a sederti, stai ferma e tieni la lingua a freno, comportati come si deve.» «Io mi sforzerò di fare ed essere qualsiasi cosa lei voglia, signorina Cuthbert, se mi terrà con sé», disse Anna, tornandosene mesta verso l'ottomana. Quando arrivarono a Green Gables quella sera, Matthew andò loro incontro sul vialetto. Da lontano, Marilla l'aveva visto camminare nervosamente lungo la strada e aveva indovinato il motivo della sua preoccupazione. Si aspettava il sollievo che gli lesse in viso appena l'uomo si accorse che perlomeno aveva riportato Anna a casa con sé, però non gli disse niente riguardo alla questione finché non furono entrambi nel cortile dietro il granaio, impegnati a mungere le mucche. A quel punto gli riferì brevemente la storia di Anna e il risultato dell'incontro con la Spencer. «Non affiderei nemmeno un cane a cui voglio bene a quella Blewitt», sbottò Matthew con insolita veemenza. «Nemmeno a me piace il suo modo di fare», ammise Marilla. «Però, Matthew, non c'è alternativa. O la diamo a lei o la teniamo noi. E dal momento che sembri volerla tenere, Immagino di volerlo o doverlo volere anch'io. Ho pensato e ripensato a quest'idea e in un certo senso mi ci sono abituata. È un po' un dovere, in fondo. Non ho mai tirato su bambini, una femmina in particolare. Mi sa che combinerò un gran pasticcio, però farò del mio meglio. Per quanto mi riguarda, Matthew, la bambina può restare. La faccia timida di Matthew si illuminò di gioia. Ecco, ci avrei scommesso che l'avresti vista sotto questa luce alla fine, Marilla, disse la sorella. È una creaturina talmente interessante. Sarebbe molto meglio se potessi dire che è una creaturina utile, ribatté lei. Ma a questo ci penserò io. A proposito, Matthew, ti prego di non interferire mai con i miei metodi educativi. Forse una vecchia zitella come me non sa molto di come si alleva un bambino, ma di certo ne sa più di un vecchio scapolo. Quindi lascia fare a me. Se non ci riuscirò, potrai metterci il becco tu. Certo, Marilla, fai a modo tuo, la rassicurò Matthew. Però con lei cerca di essere il più possibile buona e gentile, senza viziarla. Ho l'impressione che sia una di quelle bambine da cui puoi ottenere qualsiasi cosa, se solo riesci a farti voler bene. Marilla sbuffò per esprimere la propria perplessità riguardo alle opinioni del fratello su qualsiasi dettaglio del mondo femminile e se ne andò verso il piccolo caseificio con i secchi pieni. Non glielo dico stasera che starà con noi, si disse mentre versava il latte nelle scrematrici. Si ecciterebbe troppo e non riuscirebbe più a prendere sonno. Marilla Cuthbert, ormai ci sei dentro fino al collo. Avevi mai immaginato che un giorno avresti adottato una piccola orfana? In effetti è piuttosto sorprendente, ma mai quanto l'idea che sia Matthew il responsabile di tutto ciò. Proprio lui che è sempre sembrato terrorizzato a morte dalle bambine. Comunque, abbiamo deciso di provarci e lo sa Dio come andrà a finire. Capitolo 7. Anna dice le preghiere. Quando Marilla accompagnò Anna in camera sua quella sera, le disse, severa: Allora, Anna, ieri ho notato che hai buttato tutti i vestiti per terra quando ti sei spogliata. Si tratta di una pessima abitudine e non posso assolutamente permetterla. Appena ti togli ogni capo d'abbigliamento lo devi piegare per bene e poi sistemarlo a modo sulla sedia. Non ho tempo da perdere con bambine disordinate io. Oh, ieri sera avevo un tale tormento nell'anima che ai vestiti non ci ho proprio pensato, disse Anna. Però stasera li piego tutti come si deve. Ce lo facevano sempre fare all'orfanotrofio, anche se metà delle volte io me ne dimenticavo perché avevo tanta fretta di infilarmi a letto e starmene bella tranquilla a immaginare le mie cose. Dovrai essere un po' meno smemorata se resterai qui, l'ammonì Marilla. Ecco, così cominciamo a ragionare. Avanti, di le tue preghiere e va a letto. Io non dico mai le preghiere, annunciò Anna. Marilla le lanciò un'occhiata inorridita e sgomenta al tempo stesso. Ma Anna, cosa stai dicendo? Non ti hanno mai insegnato a pregare? Ma Dio vuole che le bambine dicano le preghiere ogni sera. Non sai che è Dio, Anna? Dio è puro spirito, infinito, eterno e immutabile nella sua essenza, saggezza, potenza, santità, giustizia, bontà e verità, rispose la bambina senza la minima esitazione. Marilla ne fu sollevata. Ah, allora qualcosa sai, grazie al cielo. Non sei una selvaggia. Dove l'hai imparato? Oh, alle lezioni di dottrina dell'orfanotrofio ci hanno fatto imparare a memoria tutto il catechismo. Mi piaceva abbastanza, devo dire. C'è qualcosa di meraviglioso in certe parole, infinito, eterno, immutabile. Non è stupendo. C'è un ritmo dentro, come un grande organo che suona. Non si può proprio dire che sia una poesia, però suona molto simile, vero? Non stiamo parlando di poesia, Anna, stiamo parlando di recitare le preghiere. Non sai che è un peccato gravissimo non dire le preghiere ogni sera? Ho paura che tu sia una bambina molto cattiva, sai? Troverebbe anche lei più facile essere cattiva anziché buona, se avesse i capelli rossi, ribatté Anna in tono di rimprovero. Quelli che non hanno i capelli rossi non hanno idea di quanto è brutto. Una volta la signora Thomas mi ha detto che Dio mi ha fatto i capelli rossi di proposito e da quel momento non mi è importato più niente di lui. E comunque sono sempre stata troppo stanca la sera per stare lì a dire le preghiere. Se devi badare a tutti quei gemelli, non ci si può aspettare anche che tu dica le preghiere in tutta onestà. Le pare mai possibile? Marilla decise che la formazione religiosa di Anna doveva cominciare subito. Non c'era tempo da perdere. Se vivi in casa mia, devi dire le preghiere, Anna. Certo, se vuole, acconsentì Anna allegra. Farò qualsiasi cosa le faccia piacere, però devi dirmi lei cosa dire per questa volta. Dopo, quando me ne sarò andata a letto, mi inventerò una bella preghiera tutta mia da dire ogni sera. Credo che sarà interessante ora che ci penso. Devi inginocchiarti, suggerì Marilla un po' in imbarazzo. Anna si inginocchiò accanto a lei e la guardò da sotto in su, seria. Perché bisogna mettersi in ginocchio per pregare? Se davvero volessi pregare, sa cosa farei? Me ne andrei in un grande prato, da sola, oppure in mezzo a un bosco e guarderei il cielo sopra di me, su, su, su, guarderei quel bellissimo cielo, azzurro, come se non ci fosse limite alla sua azzurrità. E a quel punto so che la mia preghiera nascerebbe spontanea. Ecco, sono pronta. Che cosa devo dire? Marilla era più a disagio che mai. Aveva pensato di insegnare ad Anna la preghiera più classica, l'angelo di Dio, ma era una donna, l'ho già detto, con un notevole senso dell'umorismo e che poi è solo un altro modo per dire che sapeva dare un senso all'adeguatezza di ogni situazione. E di colpo le venne in mente che quella preghierina semplice che faceva pensare a bambini vestiti di bianco che la sussurravano inginocchiati accanto alla mamma era del tutto inadatta a quella streghetta lentiginosa che non sapeva nulla dell'amore di Dio e non se ne curava minimamente, perché nessuno gliel'aveva mai fatto conoscere attraverso la mediazione dell'amore umano. Sei abbastanza grande da pregare da sola, Anna, le disse alla fine. Basta che ringrazi Dio per la sua bontà verso di te e chiedigli umilmente ciò che desideri. Va bene, farò del mio meglio, promise Anna nascondendo il viso in grembo a Marilla. Oh, Dio, Padre onnipotente, è così che i pastori dicono in chiesa, quindi immagino che vada bene anche per una preghiera privata, giusto? Interloquì alzando il viso per un attimo. Stavo dicendo, oh Dio Padre onnipotente, ti ringrazio tanto per la bianca via della delizia, per il lago delle acque scintillanti e poi per Bonnie e la regina della neve. Ti sono sinceramente grata per tutte queste cose e queste sono tutte le cose belle che mi sono venute in mente così al volo, per cui ti ringrazio. Quanto ai miei desideri, sono talmente numerosi che ci vorrebbe davvero troppo tempo per citarli tutti, quindi ricorderò soltanto i due più importanti. Ti prego, fammi restare a Green Gables e ti prego, fammi diventare bella quando sarò grande. Rispettosamente tua, Anna Shirley, concluse. Ecco fatto. Andava bene? Chiese poi speranzosa, alzandosi in piedi. Avrei potuto farla molto più elaborata se avessi avuto un po' di tempo per pensarci. La povera Marilla fu salvata da un collasso solo grazie al pensiero che la bambina si fosse lanciata in quella preghiera così originale, non per mancanza di rispetto, ma per semplice ignoranza spirituale. Le rimboccò le coperte e intanto prese mentalmente nota di insegnarle una preghiera seria come prima cosa il giorno dopo e stava già uscendo dalla stanza con il lume quando Anna la richiamò. Stavo pensando una cosa, avrei dovuto dire amen invece che rispettosamente tua, vero? Come fanno i pastori in chiesa. Me ne ero dimenticata, ma sentivo che la preghiera doveva avere una conclusione speciale in qualche modo. Secondo lei farà differenza? Io credo di no, le rispose Marilla. Adesso dormi da brava bambina. Buonanotte. Stasera posso dire buonanotte con la coscienza pulita, esclamò Anna, raggomitolandosi soddisfatta sotto le coperte e fra i cuscini. Marilla se ne tornò in cucina. Appoggiò con decisione la candela sul tavolo e fulminò Matthew con lo sguardo. Matthew Cuthbert. È proprio ora che qualcuno adotti quella bambina e le insegni qualcosa. È una piccola miscredente, in pratica, ma ci pensi che fino a stasera non aveva mai recitato una preghiera in vita sua? Domani stesso la manderò in canonica a prendere in prestito il libro delle preghiere, ecco. E appena sarò riuscita a cucirle qualche vestito decente, la manderò al catechismo della domenica. Mi sa che avrò un grande affare. D'altronde si sa che non è possibile passare per questo mondo senza assorbirsi la propria dose di tribolazioni. Finora la mia vita è stata piuttosto facile, ma è venuto il mio momento. Tocca a me e non posso fare altro che rimboccarmi le maniche e impegnarmi con tutta me stessa.